Luna e stelle fan le notti più belle risplendendo lassù, notti chiare per sognare. Luna piena, notte dolce e serena per chi dorme qua giù. Sailor Moon, dalla luna tu ci degnerai e combatterai per la libertà. Stelle prigioniere delle nubi lassù, non cadere.